Están sí, muy bajito. Tengo más que un Cariel, uno de Cariel. Chicu, Chicu, Chicu, chiamata dall'Italia. Chicu Diecchis, Chicu Diecchis, da nord Sardegna, Italia, chiama. Brecchi, brecco, va? Los metros están ahí quietos, Roy. Ese radio del Striker 655 está un poco bien el metro porque yo ajusto el mariscal está transparente porque lo tengo ajustado, vuelvo para sono arrivato, non entra nulla, se lo devi fare è stato tutto un susseguirsi di cose. Sì, sta funzionando bene, tutto ok. Che stava grande, poi se devo buscarmi un altro spezzone e due PL. Sono stanco, cazzo, mi ha fatto perdere la pazienza, poi ero io che non ci sono arrivato con la testa, capito? Ah, va sì che tocca, funzionava. Quelle cose bisogna un po' di pazienza e guardare soprattutto come si connettono le cose, perché un attimo sbagliare, un attimo fare danni. Capo. Ma se lo vuoi fatto bene, cazzo, devi intrecciare poco di gaffe, attaccare, riattaccare, un casino. Ah no. Però ma... sai, l'essenziale che ti serve. Due cose non si possono attaccare due amplificatori insieme, no? Ho detto che c'è, però l'essenziale che ti serve. Poi vabbè, al limite se uso quello là. Poi ti ricordai che mutare in sala in camera quando devi usare quello di camera. Kappa. Sì. Già fatto. Mi serve un altro spezzone perché non ce l'ho. 48, vabbè, gli altri no, non li posso usare perché non c'ho spezzone. Io sia che non giù. Davvero, anche io me li devo fare, ma non ho PL e mi devo prendere anche PL. Cappa. Me lo compro già fatto, boh, già funziona, io ho un sacco di anni io quelle persone già fatte, ma più che altro utilizzo sempre il 48 io. Ragazzi, devo buscarmi un altro alimentatore e attaccare quello là a vedere come esce. Attenzione 10 gappa. Sono tutti al mare. Mi hanno invitato a pranzo, perché siamo attaccati da un cancello con Paloppoli, e inizia a raccontare questa cosa che è andato in supermercato, camminando, per sbaglio ha preso il carrello di questa e gli fa questa qua, guarda il carrello è mio, comunque per fare una breve dice che c'è la bella che è montata, e non vi credo, pure buona mi, ma c'è ricordo a casa che io vada, pure buona, quant'anno sia. Adesso si monta, non te fai un cazzo, un po' di si mangia. Ma tutto proprio te la guarda, ti facevo anche il disegnino parlando. Cosa ti ho detto di un culo, ho triviato le godevo, cioè, ma vai curica di coglione. Ma ti vai andando al supermercato, fai sbagli, per un.